140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco la protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Parole dintorni, ufficio stampa, Milano. Dopo 6 anni, il nuovo disco di inediti di Laura. Subito ai vertici della classifica, Il contrario dell'amore. Ha incuriosito tante persone, vedo, quindi effettivamente ci ho beccato allora. Il contrario dell'amore è tutto quello che dell'amore noi non vediamo, cioè tutto quello che è l'altro. Potevo anche scrivere The Dark Side of Love, no? Un po' in onore dei Pink Floyd, Dark Side of the Moon, cioè il lato che esiste, no? Nei rapporti che noi abbiamo, ma non solo di tipo sentimentale, anche con familiari, amici, e che però mettono in luce gli aspetti più sgradevoli, secondo me, del nostro, sgradevoli o comunque bene o male sinceri, onesti, e quindi insomma non sempre bellissimi, ma d'altronde noi siamo fatti di tante cose, non siamo fatti solo insomma del mulino bianco, ecco, siamo fatti anche di rabbia, di momenti di insicurezza. Io parlo anche di tutte queste cose qui perché secondo me fanno parte della vita, sono parte degli esseri umani. Però il tuo biglietto da visita è stato molto allegro quest'anno, eh? Sì, ma io ho sempre un modo molto positivo di metabolizzare il dolore in generale, nel senso che tutte le esperienze negative che ho, positive o negative, cerco sempre di virarle in positivo. Infatti nel disco c'è un po' questo contrasto, no? Fra questi testi molto impegnativi e le musiche più gioiose, solari, brillanti, melodie facili, insomma, che prendono subito, per cui mi piacciono i contrasti e lo sono sempre stata, una un po' amante dei contrasti. Decenni, tre donne, in che senso? Allora, tre donne perché ho scelto tre canzoni di tre artisti di tre decenni, cioè rappresentativi dei decenni, diciamo, che hanno rappresentato meglio il pop rock, perché diciamo la musica che mi piace di più, e soprattutto sono tutte e tre realtà cantautorali, perché ho scelto Lucy da Lucy in the Sky with Diamonds dei Beatles, Mary Jane da Mary Jane di Alanis Morissette, e tipo poi Lisa da Set Lisa di Cat Stevens. E queste tre decadi, cioè 60, 70 e 90, diciamo che rientrano molto prepotentemente nel disco, perché è il sound che io ho scelto da dare al disco. I personaggi sono dei personaggi alter ego che io ho inventato per raccontare quello che io dico nelle canzoni, perché di solito gli artisti tendono a svelare, no? Poi alcuni aneddoti relativi alle canzoni. Io in questo caso non lo volevo fare perché erano canzoni molto personali, quindi preferivo che tutto quello che stava dietro a queste canzoni ci fosse, ma fosse in una maniera romanzata, in modo che uno potesse vederci, insomma, leggere fra le righe, ma non essere totalmente certo se le cose erano accadute o no. Non ti faceva paura ritornare dopo tutto questo tempo? Paura nel ritrovare le persone, dire chissà chi mi ha aspettato? Paura nei tempi cambiati, perché sono passati pochi anni eppure adesso ci sono i social rispetto a qualche anno fa. Mi piace. È tutto cambiato? Ma allora, il mondo dei social mi piace e questa novità comunque mi sono adattata in maniera molto positiva. Non mi chiedevo chi mi avrebbe aspettato, mi chiedevo se io sarei stata in grado di essere, diciamo, giusta, insomma, comunque all'altezza della situazione, per cui non lo so, il pubblico mi sembra che mi stia premiando, visto che oggi siamo primi in classifica, quindi insomma credo che la risposta sia stata positiva alla fine. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Laura. L'appuntamento con 140 caratteri ogni sabato alle 15. Ci risentiamo tra un'ora con RadioTube.